Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Con la massima attenzione stiamo dispiegando e mettendo a disposizione tutta la documentazione, fino anche ai racconti dei singoli operatori che si sono avvicinati alla bambina, per chiarire il più presto possibile e più completamente possibile la situazione. A parlare così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è Claudio Dario, che è direttore sanitario dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento. Questo a proposito di questo caso che sta facendo molto discutere e preoccupare, della bambina di 4 anni che è morta per malaria. Perché resta ancora, diciamo, utilizziamo questo termine, un mistero, in realtà, insomma, è un po' tutto da chiarire, come si sia contagiata. Si fanno varie ipotesi, capiamo nel corso di questa puntata di Effetto Notte con degli esperti quali sono le ipotesi più accreditate, più fondate, anche come si contagiano effettivamente gli esseri umani, come avviene questo contagio della malaria, qual è la profilassi, la prevenzione, quali farmaci bisogna usare, quali sono i sintomi. Ecco, non perdete questo appuntamento con Effetto Notte, come sempre naturalmente tutte le sere, e ricordatevi, per le vostre domande, i vostri dubbi, mandateli per tempo. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Quindi in particolare parliamo di questo stasera. Se ci sono dubbi, domande, perplessità, inviatele repentinamente. E poi naturalmente parleremo di molte altre cose, parleremo di politica italiana, perché torna in auge, torna in primo piano, in agenda, come vogliamo dire, la legge elettorale. Sarete felicissimi naturalmente di sentirne parlare, però insomma è con questa che poi bisognerà votare alle elezioni politiche della prossima primavera. E ci collegheremo anche con gli Stati Uniti, perché non solo c'è la Corea del Nord che minaccia con missili, razzi, bombe, eccetera, c'è anche Irma, l'uragano, c'è appena passato un altro giorni fa, l'uragano che adesso sta per arrivare sulla Florida. Si parla di una potenza record di evacuazione di migliaia di persone, insomma anche di questo parleremo. Però prima di tutto riassunto della giornata e poi man mano tutti questi argomenti con i vari ospiti. Il caso della bambina morta di malaria, la piccola si è ammalata in ospedale, il parassita è lo stesso delle bimbe infette, esplode la polemica, inchiesta a Trento per omicidio colposo. Migranti, la Corte europea dà ragione a Roma contro i ricorsi di Slovacchia e Ungheria, giusti i ricollocamenti. Stati Uniti, Florida in allarme per l'arrivo dell'uragano Irma, ordine di evacuazione per molti cittadini, e intanto 15 stati lanciano l'offensiva legale a Trump sui Dreamers. Vaccini, la ministra Lorenzin e Fedeli chiedono al presidente del Veneto di rivedere la sua posizione, scontro nel centrodestra, Forza Italia a favore, Salvini sta con Zaia. La legge elettorale torna in agenda, i gruppi parlamentari hanno espresso la disponibilità a riprendere l'esame del testo, il Movimento 5 Stelle frena e chiede prima la legge sui vitalizi. Incendio in un'azienda di rifiuti nel Pavese, timori per la diossina, ma è l'ennesimo rogo di questo tipo. Salute, stop alle bibite zuccherate nelle scuole europee, impegno volontario da parte dei produttori. E partiamo quindi naturalmente dal caso della piccola di 4 anni morta di malaria. La Procura di Trento indaga per omicidio colposo nei confronti di ignoti. Infettata nell'ospedale di Trento. Confermata a quanto sembra l'ipotesi ventilata dal ministro della Salute Lorenzin. Il parassita della malaria che ha ucciso la piccola Sofia a Brescia è lo stesso che aveva fatto ammalare i due bambini di ritorno dal Burkina Faso, che erano ricoverati nel reparto di pediatria a Trento negli stessi giorni della piccola. I bimbi sono stati dimessi poi in buone condizioni, insieme alla madre e al fratello più grande, che avevano accusato gli stessi sintomi e che erano ricoverati invece nel reparto adulti dello stesso ospedale. C'è da capire come il virus possa essere stato trasmesso alla bimba. Lo accerteranno le indagini della Procura di Trento, che indaga per omicidio colposo contro ignoti. Per Sofia era stata un'estate non facile. Prima il ricovero per diabete a Porto Gruaro e a Trento, poi era tornata in quest'ultimo ospedale, dove una prima volta le era stata diagnosticata una faringite ed una seconda la malaria, rivelatasi poi purtroppo fatale. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come vi dicevo, poi tra poco torniamo a parlarne per cercare di capire appunto cosa sia successo, quali sono le ipotesi più accreditate, anche come si contrae la malaria, come si previene, come si cura, eccetera. Tutti i vostri dubbi, le vostre domande, vi ricordo, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Occupiamoci adesso invece di migranti, perché un blocco di paesi dell'Unione Europea torna a criticare il sistema di ricollocamento dei migranti. Tutto questo dopo che la Corte Europea di Giustizia ha respinto i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro la cosiddetta relocation dei richiedenti asilo da Italia e Grecia. Oggi sono intervenuti i leader politici di Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. La Corte di Giustizia europea respinge i ricorsi contro i ricollocamenti presentati da Ungheria e Slovacchia. Il sistema delle quote, deciso dall'Unione europea per redistribuire i richiedenti asilo arrivati in Italia e in Grecia, contribuisce in modo proporzionato a far sì che i due paesi possano far fronte alle conseguenze della crisi migratoria del 2015, spiegano i giudici. La Corte ci dà ragione sui ricollocamenti, ora superiamo anche le vecchie regole di Dublino, commenta soddisfatto il ministro degli esteri Alfano. Se viene meno il vincolo della solidarietà, viene meno l'Europa, aggiunge il capo dello Stato Mattarella. È tempo di solidarietà, commenta anche il commissario europeo Avramopoulos, che però avverte: se Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia non cambieranno il loro approccio sui ricollocamenti, la procedura di infrazione nei loro confronti andrà avanti col deferimento alla Corte di Giustizia, una minaccia che non sembra però preoccupare i paesi del gruppo di Visegrad. Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia contestano infatti la sentenza e ribadiscono il loro no al ricollocamento dei migranti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Stati Uniti adesso, Florida in allarme per l'arrivo dell'uragano Irma, ordine di evacuazione per moltissimi cittadini, e oggi la Camera americana ha approvato quasi 8 miliardi di dollari di aiuti iniziali per soccorsi e ricostruzione a seguito del passaggio dell'altro uragano Harvey in Texas. Insomma, sono messi piuttosto male. Intanto, dopo l'abrogazione ieri del DACA, il programma voluto da Obama per sostenere i giovani immigrati e salvarli dall'espulsione, i cosiddetti Dreamers, i vescovi americani parlano di atto riprovevole e straziante, mentre partono intanto proteste in varie città americane. 15 stati lanciano, è notizia di poco fa, l'offensiva legale contro Trump. Per parlare di tutto questo, vi dicevo, poi più tardi ci colleghiamo direttamente con gli Stati Uniti. Torniamo adesso sulle notizie italiane. Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, le ministre dell'Istruzione e della Sanità, Fedeli e Lorenzin, hanno scritto al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per chiedergli di rivedere la sua posizione sui vaccini, e su questo tema c'è una spaccatura all'interno del centrodestra di cui parleremo questa sera nel corso di Effetto Nota. Intanto prosegue il viaggio di Radio 24 sui vaccini. Libretti vaccinali o in mancanza autocertificazioni o dichiarazioni che attestino di aver richiesto la visita alla ASL. Questi i documenti che le famiglie dovranno presentare alle segreterie scolastiche, le quali dovranno controllare che tutto sia in regola e segnalare eventuali inadempienze. Nuove incombenze dunque ricadono sulle scuole, con queste nuovi timori e preoccupazioni. Il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi. La preoccupazione che noi abbiamo come presidi è che anzitutto si sia un carico di lavoro, soprattutto dal punto di vista della documentazione burocratica, molto forte per le scuole, che hanno ranghi sempre più ridotti nelle varie segreterie, e soprattutto il timore che ci possa essere da parte delle ASL una delega troppo ampia alle scuole di verifica, cosa che appunto alle scuole non compete, di verifica appunto delle varie documentazioni che verranno presentate. Le scuole dovranno poi organizzare le classi in modo da prevedere una distribuzione omogenea di bambini non vaccinati perché esonerati per motivi di salute, un lavoro che solitamente viene fatto a luglio, mentre ora bisognerà rimetterci mano visto che molte informazioni devono ancora arrivare. Ci saremmo aspettati un maggiore coordinamento, ma il Parlamento ha avuto dei tempi e delle lungaggini nell'approvazione della legge che non hanno tenuto conto di quelli che sono i tempi della scuola. Insomma, ben vengano le vaccinazioni obbligatorie, dicono i presidi, ma sarebbe stato necessario un maggior coordinamento con regioni e ASL. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso la politica, tutti i gruppi parlamentari hanno espresso la disponibilità a riprendere l'esame della legge elettorale partendo dal testo che l'Aula ha rinviato in commissione dopo l'incidente sul voto segreto dell'8 giugno scorso. Il Movimento 5 Stelle però frena e si dice disponibile, ma solo a patto che sia approvata prima la legge sui vitalizi. Intanto in Sicilia, ne abbiamo parlato ieri, della campagna elettorale per le elezioni siciliane che saranno il prossimo 5 novembre, Alternativa Popolare di Alfano va verso l'appoggio a Micari, il candidato del Partito Democratico. E intanto è stata vietata dal questore di Roma, Guido Marino, la passeggiata per la sicurezza annunciata da Forza Nuova per venerdì sera nelle strade del quartiere Tiburtino Terzo alla periferia della capitale. Secondo quanto si è appreso, la decisione di annullare questa marcia è stata presa considerando le condizioni di ordine pubblico e la concomitanza con altri eventi. Parliamo anche di pensioni, perché dal 2018 le donne andranno in pensione in Italia come gli uomini. A gennaio scatta infatti l'unificazione dell'età per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne, con l'aumento di un anno per le dipendenti private e il passaggio a 66 anni e 7 mesi. L'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sarà la più alta in Europa per quanto riguarda le italiane e gli italiani. Il divario si accrescerà nei prossimi anni con gli altri paesi, con l'adeguamento dell'età di vecchiaia all'aspettativa di vita e il passaggio atteso a 67 anni nel 2019. In Germania invece è previsto il passaggio a 67 anni per l'uscita nel 2030, pensate, noi nel 2019, in Germania nel 2030, in Francia dopo il 2022, nel Regno Unito nel 2028. Siamo alla cronaca. Brucia dalle 6.30 di questa mattina uno stabilimento che si occupa del recupero di rifiuti speciali a Mortara, in provincia di Pavia. Ai cittadini è stato consigliato di tenere le finestre chiuse a scopo precauzionale. Il rischio di ossina è concreto, come conferma la direttrice del Dipartimento ARPA di Pavia e Lodi, Angela Alberici, intervistata da Anna Rita D'Ambrosio. La quantità di rifiuti che sta bruciando è molto elevata. E sono rifiuti il più eterogeneo possibile, si va dal materasso fino alla plastica, fino alle gomme, e quindi sicuramente ci sarà un po' di diossina in giro. Quanto, vedremo le nostre analisi, quanto diranno ovviamente nei prossimi giorni. Ma al di là della cronaca, torna il dubbio del racket dietro i tanti incendi di depositi di rifiuti. Questa mattina un grande incendio ha danneggiato l'azienda di lavorazione e riciclo dei rifiuti rigenerabili Eredi Bertè di Mortara, capoluogo della Lomellina in provincia di Pavia. La nuvola densa di fumo nero è stata vista in tutta la provincia e ha destato preoccupazione anche nel Novarese e nell'Alessandrino. Da mesi suscita allarme il fenomeno degli incendi che devastano le imprese di trattamento dei rifiuti riciclabili. C'è chi sospetta che dietro ad alcuni casi vi sia una mente criminale unica. Secondo una stima del Sole 24 Ore, da maggio ad agosto in Italia sono andati a fuoco più di 30 impianti di raccolta e riciclo, selezione o smaltimento e trattamento dei rifiuti o dei materiali da rigenerare. In alcuni casi l'origine delle fiamme è chiaramente volontaria e a volte gli incendiari sono stati addirittura filmati dalle telecamere notturne di sicurezza degli stabilimenti. In altri casi si tratta chiaramente di incidenti o di avarie come cortocircuiti elettrici. Jacopo Giliberto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo all'estero, con una notizia che viene dall'Iran. Alle donne iraniane è stato proibito di assistere all'incontro della loro nazionale di calcio maschile contro la Siria, valido per le qualificazioni ai mondiali 2018, malgrado fossero in possesso di regolare biglietto acquistato in prevendita. Lo riferisce il sito internet della BBC. Le donne si sono radunate all'esterno dello stadio Azadi di Teheran per protestare dopo che era stato loro chiesto di uscire, mentre le donne siriane hanno superato i tornelli senza problemi dopo aver mostrato i passaporti. Naturalmente nelle culture, nei regimi oscurantisti, quelle che si passano peggio sono sempre le donne. In Italia, questa notizia che riguarda il comune di Milano che si è candidata ad ospitare la convention del 2020 sul turismo LGBT, organizzata dall'International Gay and Lesbian Travel Association. Lo facciamo, dice Sala, per l'indotto, ma anche perché è un messaggio di coerenza con le politiche portate avanti dall'amministrazione. Sala, il sindaco di Milano, ha detto: io coccolo Milano, è un evento del genere, può portare qui 30.000 persone, qualcuno sta seduto e commenta, qualcun altro lavora, aggiunto rispondendo alle polemiche del centrodestra sulla candidatura di Milano. Entro il 2018, questa è una notizia che riguarda la salute, l'industria europea dei soft drinks, delle bibite zuccherate, non venderà più appunto le bevande zuccherate nelle scuole secondarie dell'Unione Europea, distributori automatici inclusi. Lo annuncia l'Associazione Europea di Categoria, che rappresenta i più noti produttori di bevande analcoliche. L'iniziativa su base volontaria riguarda oltre 50.000 scuole secondarie. Per chiudere, un po' di mostra del cinema di Venezia. Oggi è stato il giorno del terzo film italiano in corsa per il Leone d'Oro e piovono applausi. A vita mia, moronga te. Che a vita tua, poi ci pensi. Risate e applausi per Amore Malavita dei Manetti Bros, una scommessa per il concorso veneziano. Oltre due ore di musical napoletano davvero riuscito. La storia del boss Carlo Bucci Rosso, della pupa Claudia Gerini, dell'innocente Serena Rossi e il suo primo amore, il sicario Giampaolo Morelli. Siamo un po' nel musical, ma un po' nella soprattutto nella sceneggiata napoletana. Dico sempre che facendo sto film mi sono sentito una via di mezzo fra John Travolta e Mario Merula. Per le star da Red Carpet, oggi il giorno di Javier Bardem e Penelope Cruz nell'ennesimo racconto filmico della vita di Pablo Escobar. Perché Loving Pablo? Per spiegare che succede quando a un livello personale. Per spiegare, dice Bardem, cosa succede quando una donna si innamora di un tipo così o quando si innamora una società, finiscono per distruggersi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. Bene, e questo è il racconto in sintesi della giornata. Adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia. Ringrazio chi ancora mi saluta. Bentornata Francesco da Udine, che dice bentornata Roberta Giordano, era ora, non ce la facevamo più senza Francesco, quindi corro in soccorso di Francesco e degli altri da questa crisi di astinenza. Ormai è ricominciata da lunedì, quindi è il terzo giorno della nuova stagione di Effetto Notte, la vostra colonna sonora per essere tutti i giorni costantemente aggiornati su quello che è successo in Italia all'estero, almeno per le cose più importanti. Per i vostri messaggi, ringrazio ancora tutti, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte e poi il numero per messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666. Tra poco parleremo del caso della bimba morta di malaria e anche di tutti i dubbi, le riflessioni che si fanno intorno a questo caso e alla questione appunto della malaria. Ancora esiste in Italia? Che tipo di contagio? Come è stata contagiata questa bambina? Con due esperti, le vostre domande a tra poco. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui di nuovo, Roberto Giordano, sempre con voi. Allora, le notizie più importanti le avete sentite. Prima di affrontare il primo argomento con gli ospiti, ve le ricordo velocemente, che sono il caso della bambina morta di malaria, di cui ci occupiamo tra poco con degli esperti. La piccola si sarebbe ammalata in ospedale, esplode la polemica. Intanto a Trento, la Procura di Trento apre un'inchiesta per omicidio colposo. Poi sulla questione dei migranti, la Corte Europea dà ragione a Roma contro i soccorsi di Slovacchia e Ungheria, quindi sono giusti i ricollocamenti, dice la Corte Europea. Per gli Stati Uniti c'è l'allarme sul nuovo uragano che sta arrivando, Irma, che dovrebbe colpire prima di tutto la Florida. Ci sono c'è una grande evacuazione per molti cittadini e intanto 15 stati lanciano l'offensiva legale a Trump sui Dreamers. Per quanto riguarda i vaccini, la ministra Lorenzini e la ministra Fedeli hanno scritto al presidente della regione Veneto Zaia di rivedere la sua posizione. Nel frattempo c'è una spaccatura all'interno del centrodestra. Poi la legge elettorale, che torna in agenda per quanto riguarda la politica. Per la salute, stoppa le bibite zuccherate nelle scuole europee, c'è l'impegno proprio volontario da parte dei produttori. Ed eccoci quindi al caso della bambina di 4 anni morta a causa della malaria, una vicenda ancora tutta da chiarire per quanto riguarda in particolare la modalità con cui la bambina è stata contagiata. Tra l'altro leggo proprio adesso un dispaccio di agenzia uscito in questi istanti che dice: saranno i medici veronesi Federica Bortolotti, anatomopatologa dell'Università degli Studi di Verona, e il professor Angelo Cazzadori, specialista in malattie infettive, i due periti nominati dalla Procura di Trento per effettuare l'autopsia sul corpo della piccola. Sofia. Sul caso è stata avviata, vi dicevo, una inchiesta per omicidio colposo contro ignoti da parte della Procura di Trento. È una vicenda che rischia anche di creare allarmismi, e quindi proprio per questo cercheremo di capire tra poco con gli esperti cosa potrebbe essere successo e anche come prevenire, come curare, quali sono i sintomi, come si trasmette la malaria. Aggiungendo che, tra l'altro, come succede molto spesso in Italia, non solo in Italia ma in particolar modo in Italia, è diventato questo un caso politico, visto che ci sono state polemiche su dei titoli di giornali allarmistici su alcuni quotidiani che collegano malaria e migranti, ma questo, insomma, ci interessa altro. Intanto Nunzia Di Palma, che è direttrice dell'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Trento, dove era stata ricoverata la bimba di 4 anni che poi è morta lunedì a Brescia, ha detto che oltre alle due bambine africane in pediatria all'ospedale di Trento c'erano anche la mamma, la loro mamma e il fratello più grande, che erano ricoverati nel reparto per gli adulti. Entrambi, cioè tutta la famiglia praticamente, è stata dimessa, e la stessa direttrice ha detto che il parassita che ha colpito la bambina, che ha causato quindi la malaria, è lo stesso che ha fatto ammalare questi bambini. Si tratta, il parassita in questione è il Plasmodium falciparum, e questa inchiesta per omicidio colposo aperta contro ignoti, vi dicevo, dalla Procura di Trento, punta ad accertare se siano stati seguiti i protocolli prescritti per le cure, per ricostruire con precisione le tappe cliniche che hanno portato alla morte di questa bambina. Sofia era stata ricoverata, vi ricordo, prima per diabete a Portogruaro e a Trento, poi era tornata in quest'ultimo ospedale a Trento, dove una prima volta gli era stata diagnosticata una faringite e una seconda volta la malaria, però evidentemente forse troppo tardi, c'era stato poi il trasferimento a Brescia, ma lì era morta. E poi gli inquirenti intendono naturalmente verificare se ci sono elementi che lo rendono possibile, come sia avvenuto questo contagio. Allora ne voglio parlare con Maria Rita Gismondo, che è notissima virologa, responsabile del laboratorio di microbiologia clinica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Dottoressa Gismondo, buonasera. Buonasera a voi. E poi c'è Gianumberto Accinelli, entomologo, scrittore, divulgatore scientifico. Buonasera, benvenuto Accinelli. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, dottoressa Gismondo, lei che idea si è fatta di questa vicenda? L'idea possibile è solo quello di prendere in considerazione l'ipotesi che studi e epidemiologia oggi ci permettono. Quindi in Italia fino a questo momento non è stata dimostrata la possibilità che un anofele riesca a trasmettere il plasmodio della malaria. L'anofele si intende una zanzara nostra? La specie di una tipica che può albergare il plasmodio della malaria, che fa completare dentro il suo corpo una parte del ciclo vitale per renderla poi disponibile ad infettare l'uomo. E questo fino ad oggi è stato escluso. Abbiamo la presenza, ma c'è il collega entomologo, quindi lo dirà meglio di me, di anofele in Italia, però non è stata dimostrata la presenza di un anofele capace di poter far completare questo ciclo biologico. Questa è la prima ipotesi che escludiamo. L'ipotesi per la quale io propendo e vorrei propendere più di che altre, è quella di una zanzara arrivata attraverso un bagaglio, cosa che altre volte è accaduto, perché non voglio assolutamente prendere in considerazione che esista un ospedale italiano dove possa avvenire un contagio di questo tipo. Vorrei chiarire, perché lei ha parlato di contagio e mi permetto di correggerla. Prego. Questo sarà possibile dirlo, e speriamo che non si dimostri, qualora poi i tecnici dimostrino che il ceppo isolato dalla povera bambina morta sia uguale a quella degli altri bambini o degli altri ricoverati, perché è la stessa specie, ma nessuno ancora ha chiarito se è lo stesso ceppo. Questa è una cosa da chiarire e tenere ben presente. Allora, intanto vi faccio sentire Paolo Bordon, che è direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento, direttore generale, insomma, intervistato da Valentina Furlanetto, che spiega oggi, ha spiegato a Valentina Furlanetto che è stato disinfestato il reparto, ma non sono state trovate delle zanzare. Sentiamo. Le trappole sono state messe lunedì pomeriggio e ritirate ieri sera e non hanno evidenziato nessuna traccia di zanzare, di nessun tipo, né zanzare trentine o di altre regioni. Può essere entrata in contatto con del sangue infetto? No, questa è la verifica che era l'altro problema. A noi è escluso, abbiamo verificato tutte le procedure e i passaggi, non c'è stato proprio contatto. Può essere stata una zanzara, un insetto che appunto i bambini, le bambine del Burkina Faso e poi appunto Sofia? Questa è un'ipotesi, ma non lì è materia di grandi esperti infettivologi e di esperti di zanzare appunto. Domani arrivano dei collaboratori del Ministero per confrontarsi insieme a noi sul caso. Esperti di zanzare appunto e di insetti come Gianumberto Accinelli, che è entomologo, lei che cosa dice? Qualcuno chiede per esempio tra gli ascoltatori, ricordo il numero 349-238-6666 per le vostre domande, la pagina Facebook di Effetto Notte, dice, vediamo se lo ritrovo perché sono tanti, mi pare che sia, ecco, Mara da Milano, che chiede se questo caldo torrido che è durato così a lungo possa avere in qualche modo favorito l'arrivo anche da noi, la proliferazione di zanzare non autoctone. Allora, questo è possibile, sì. Diciamo che noi viviamo in un'epoca che viene chiamata l'antropocene, in cui si è ricreata la nuova Pangea. La nuova Pangea è l'unico continente che anticamente occupava così il pianeta Terra, e questa nuova Pangea è stata ricreata appunto dall'uomo attraverso i viaggi. In questo preciso momento stanno viaggiando sopra di noi almeno 500.000 persone, cioè il nostro così pianeta, i continenti sono collegati continuamente da aerei, da navi, da macchine, insomma da mezzi di trasporto, e insieme a noi viaggiano tanti animali, soprattutto insetti, perché sono tantissimi, sono piccoli, sfuggono ai controlli e riescono in qualche modo a infilarsi e ad arrivare così in nuovi territori. Ormai sono numerosissimi così le nuove introduzioni. E quindi sì, è possibile. Ricordo che l'Italia è stata un paese ricco di malaria, purtroppo si moriva di malaria prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi, sia grazie alle bonifiche e sia anche all'uso della chimica, in particolare del DDT che era appena stato scoperto, la zanzara è stata praticamente, la zanzara anofele, quella che veicola la malaria, è stata praticamente eradicata, ma soprattutto si è rotto così una catena di continuità, cioè non ci sono più serbatoi, cioè gli italiani non si sono più ammalati di malaria, e quindi anche se venivano punti dalla zanzara anofele, che continua ad essere rarissima, comunque non si ammalavano di malaria, perché come diceva giustamente la dottoressa, la zanzara anofele si deve ammalare con il plasmodio, cioè parte del ciclo del plasmodio viene effettuato all'interno del corpo della zanzara, quindi è una cosa piuttosto complessa. E l'Italia, in particolare il sud d'Europa, è sempre stato l'areale nord della zanzara anofele. Ovviamente il clima sempre più mite, sempre più caldo, può spostare l'areale più a nord, e magari l'Italia può diventare un luogo non più così periferico della zanzara, ma un luogo centrale dove la zanzara può vivere. Quindi lo rende possibile, insomma, questa domanda che ha fatto l'ascoltatore è fondata, nel senso è possibile sì, che ovviamente succeda. Bisogna usare il condizionale, certo. Chiaramente, perché non è stato verificato, però è possibile. La zanzara tigre, che è una zanzara tropicale, vive da noi tranquillamente da tanti anni. Dottoressa Gismondo, chiede per esempio Maria da Roma, i bambini africani sono giunti in ospedale con la diagnosi di malaria e quindi curati subito, a differenza della bambina che purtroppo poi è deceduta, è perché pare di capire che sia stata una diagnosi fatta in ritardo, no? Perché non avendo lei fatto nessun viaggio in paesi esotici, questa febbre non veniva collegata alla malaria. Certamente, guardi, quando si presenta in pronto soccorso un paziente con la febbre alta, che sono sintomi che si hanno anche nella malaria, la prima domanda che si fa è dove è stato nei 15 giorni precedenti, perché oggi proprio il parametro di rimente è stato se il paziente si è recato in luoghi dove la malaria è endemica. Nel caso non si fosse recato, non l'ipotesi di malaria non viene neanche avanzata. Quindi capisco i colleghi dell'ospedale di Trento che lo hanno preso come ultima possibilità. Poi non dimentichiamo che purtroppo la bambina era una bambina già affetta da diabete, quindi sicuramente già debole, era fragile, quindi ha avuto una chance in meno di rispondere anche alle terapie intensive che sono state praticate. E mi ricorda, dottoressa Gismondo, il caso di Fausto Coppi, no? Il grande campione di ciclismo, che è tornato da Burkina Faso. Aveva questa febbre che però non era stata diagnosticata, la malaria. Quando è stata diagnosticata era troppo tardi, no? In quel caso è successo così. Dottor Ancirelli, c'è questo ascoltatore che, insomma, riprendendo un po' questo collegamento che ha creato molte polemiche nei titoli di alcuni giornali tra migranti e malaria, dice questo ascoltatore: quanto più ci si ostina a negare il rapporto malaria-migranti, tanto più si autorizza la gente a pensarlo. Lei cosa ne pensa, Cinelli? Allora, io penso che la migrazione esiste da quando esiste l'uomo. Ricordo agli ascoltatori che noi siamo arrivati l'altro ieri, considerando i tempi della biologia, dall'Africa. Siamo diventati bianchi davvero da pochissimo tempo. E tra l'altro abbiamo seguito gli stessi percorsi che seguono attualmente i migranti. Quindi è nel nostro DNA quella di girare per il mondo. E portiamo con le migrazioni cose belle e cose brutte. Sicuramente anche le malattie, certo, questo non si può nascondere. Quindi la maggior parte dei casi di malaria che si scontrano in Italia sono di persone che provengono da zone dove questa malattia persiste, c'è ancora, quindi soprattutto dall'Africa. A Cinelli c'è Walter che scrive: Porto Gruaro, no, dove era stata ricoverata in un primo momento la bambina, dice: mi sembra che sia un porto dove attraccano navi con carichi che giungono anche da Africa e Asia. Lui fa questa ipotesi. Sì, però in genere gli insetti viaggiano in aereo, non tanto in nave, perché il loro ciclo biologico è molto breve, quindi non riescono a sopravvivere negli aerei. Con gli aerei, appunto, sì. Tra l'altro, una delle zone dove si riscontrano più insetti esotici è soprattutto il Friuli, perché ci sono tante basi americane e quindi c'è un volo così pressoché continuo tra gli Stati Uniti e l'Italia, e lì arrivano tantissimi insetti esotici. Quindi, insomma, il problema Cinelli, i migranti che arrivano via mare non potrebbero portare allora la... Non la zanzara, ma il plasmodio sì, possono essere comunque malati, sì, quello sicuramente. Così come noi abbiamo portato in America tantissime malattie, e noi abbiamo ricevuto delle malattie dagli americani. Quindi ce le scambiamo, insomma, così. Ce le scambiamo, ma questo è sempre successo. Dottoressa Gismondo, proprio per chiudere, se lei dovesse in sintesi dare alcune indicazioni, dei consigli, quali sono i sintomi, che profilassi c'è da fare a seconda dei paesi dove si va e come ci si cura, quali farmaci, proprio se dovesse fare così un quadro sintetico. Esistono delle indicazioni del Ministero della Salute e anche del Ministero degli Affari Esteri: prima di recarsi all'estero bisogna consultare il sito Viaggiare Sicuri, dove ci sono tutte le condizioni di salute dei vari paesi. Lì dove la zanzara anofele può trasmettere il plasmodio, è buona norma portare degli insetto repellenti. Bisogna spruzzare non solo il corpo ma anche i vestiti che si indossano, e poi, secondo il consiglio del medico ovviamente, eventualmente praticare una profilassi. La profilassi comincia con l'assunzione del farmaco una settimana prima della partenza. Deve essere assunto questo farmaco tutto il tempo della residenza all'estero e continuare ancora una settimana dopo il rientro. Al rientro da questi paesi, ad oggi bisogna solamente dire al rientro di questi paesi, perché ripeto, in Italia ancora non c'è questa possibilità di contagio, al rientro da questi paesi, nel caso dovessero nei 10-12 giorni successivi al rientro sorgere dei sintomi come febbre molto alta, dolore nucale, vomito, è ovviamente necessario rivolgersi a un pronto soccorso per la diagnosi. La diagnosi di malaria si fa facilmente, in maniera molto facile e molto rapida, quindi in pochissimo tempo, in 20 minuti, mezz'ora, si sa se il paziente è malato malaria oppure no. Dottoressa Gismondo, quindi lei diceva in Italia ancora non è provato che ci si possa contagiare, quindi siccome ovviamente una situazione del genere, la vogliamo definire un caso sfortunato, però crea un pochino di allarme, no? Non è fondato. Certamente. Questo. Mm? Però io volevo aggiungere, come giustamente ha detto il collega, arrivano tantissime malattie e altre ne diamo a chi arriva, insomma c'è uno scambio continuo e in questi anni molto più accelerato perché ovviamente i trasporti sono così celeri per cui tutto viene accelerato anche nella possibilità di contagio. Però se torniamo alla malaria, giusto per chiarire e per togliere tutti, i migranti che arrivano ammalati di malaria, qualora dovessero essere ammalati di malaria, vengono curati ma non ci contagiano, perché fino a quando non ci sarà l'anofele capace di contagiarci e non si attueranno determinate condizioni ambientali che la favoriscono, questo contagio non avviene. Quindi per il momento diciamo stiamo tranquilli, cerchiamo di capire che cosa è successo, domani ci sarà l'autopsia e quindi vediamo con che modalità insomma questa bambina. Il risultato definitivo sarà data dai test di biologia molecolare, perché ci diranno se il plasmodio isolato dalla bambina sia lo stesso isolato dagli altri bambini ricoverati. Quindi perché manca ancora anche questo tassello. Specie, no? Certo. Questo è essenziale dirimente. C'è ancora tra le varie domande, non è possibile ancora morire di malaria nel 2017, si sa che il protocollo si è seguito all'ospedale, è una cosa che sta facendo, sulla quale sta indagando la procura di Trento questo, ma insomma sembra che molto probabilmente la diagnosi, come spiegavamo, deve essere arrivata un po' in ritardo proprio perché non essendo stata la bambina in paesi fuori dall'Italia, esotici o dove appunto c'è la malaria, questa cosa non era stata probabilmente diagnosticata per tempo. Grazie alla dottoressa Maria Rita Gismondo, grazie. Buona serata. Grazie Gian Umberto Acinelli, grazie anche a lei, grazie. Grazie, grazie, buona serata. Bene, direi allora di prenderci una piccola pausa adesso di pochi minuti e poi con gli altri temi voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Note, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, riprendiamo allora dopo aver parlato molto lungamente del caso della bimba morta di malaria e anche di tutti i dubbi, le riflessioni che naturalmente vengono normalmente con una vicenda di questo tipo. Adesso però cambiamo argomento, parliamo di politica tra pochissimo, ricordandovi che appunto la vicenda della piccola Sofia è una notizia principale, si sarebbe ammalata in ospedale. Intanto la procura di Trento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Sui vaccini il governo scrive a Zaia, ne parleremo tra pochissimo, e poi la Corte europea che dà ragione a Roma sui ricollocamenti contro i ricorsi di paesi dell'est come la Slovacchia e l'Ungheria. Faccio il botanico, non sono esperto di quadrifoglie. Non ho visto, mi piace raccogliere i quadrifogli. Questa è la battuta che ha fatto il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di un simbolo che è stato anticipato, mi pare, dal giornale La Stampa, dal quotidiano La Stampa, che raffigurerebbe tutta la coalizione del centrodestra per le prossime elezioni politiche. Ne parliamo con la nostra Elisabetta Fiorito da Roma. Carabetta, buonasera. Buonasera. Perché, allora, a parte la botanica, ecco, diciamo che ritorna in auge senz'altro, ieri abbiamo parlato della campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni in Sicilia, le elezioni regionali che però ci saranno il 5 novembre, adesso ritorna in auge però la legge elettorale. elettorale, perché poi a primavera si va verso le, si vota per le elezioni politiche, no? Nel frattempo è emersa anche questa polemica sui vaccini con le ministre, lo dicevo prima, Fedeli e Lorenzin, che hanno scritto al presidente della regione Veneto Zaia, il quale, come sappiamo, ha fatto questo strappo sul decreto vaccini, ha detto no, io do una proroga alle persone per i bambini da 0 a 6 anni fino al 2019, e su questo si è spaccato anche il centrodestra, no Elisabetta, proprio al suo interno. Diciamo che sia la storia del quadrifoglio, che ricordiamo dovrebbero essere i quattro simboli del centrodestra, quindi Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, e il quarto petalo dovrebbe essere appunto Alfano AP, ed è questo che contesta Matteo Salvini. Lo sappiamo, il leader della Lega ha sempre detto che non si può andare in coalizione con chi ha appoggiato il governo di Matteo Renzi e del PD, e anche che sta appoggiando il governo Gentiloni. Dall'altra parte c'è la questione vaccini, e c'è di nuovo una spaccatura del centrodestra, soprattutto perché Zaia questa sera è intervenuto, ha un attimo spiegato, c'è adesso la lettera delle ministre Lorenzin e Fedeli, e quindi adesso studieremo e vedremo, quindi è stato un pochino più cauto, sì. Ma Matteo Salvini ha subito detto no, perché il Veneto è una delle regioni più virtuose, che è vero, nella vaccinazione. Manca pochissimo per raggiungere la famotica soglia del 95% di copertura vaccinale. Pare che sia il 92% il Veneto, sì. Una cosa sì, insomma, 95% la copertura vaccinale, e manca poco, per cui si scagliano contro una delle regioni più virtuose. In realtà poi lì c'è uno scontro invece con Forza Italia, sia per quanto riguarda la coalizione e la legge elettorale. Senti, sia per quanto riguarda i vaccini, che hanno detto no, bisogna infatti applicare la direttiva. Forza Italia ha lanciato un appello, noi capigruppi di Forza Italia hanno lanciato un appello alla Lega, a Zaia, dicendo insomma cerchiamo di superare questa impasse, adeguatevi alla legge. Betta, perdonami, dobbiamo dare gli aggiornamenti per chi viaggia, e ritorniamo tra pochissimo e ci spieghi un po' che cosa sta succedendo per quanto riguarda la legge elettorale, questo quadrifoglio che, ricordo, le varie foglioline sarebbe la coalizione di centrodestra, quindi Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, manca la quarta, ci dici tu magari dopo che cos'è. 57° Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ritorniamo con Elisabetta Fiorito, quindi sulla politica, su quello che stavamo parlando del quadrifoglio, di questa coalizione che ci sarebbe nel centrodestra anche in vista delle elezioni politiche, no? Allora, abbiamo detto il quarto petalo dovrebbe essere AP di Alfano, cosa che non piace a Matteo Salvini della Lega. Ricordiamo un attimo, in questo contrasto dei vaccini, volevo finire dire questo, il contrasto non è solo la copertura vaccinale, la salute pubblica, ma è anche un contrasto politico, ricordiamolo. Il movimento antivaccini si appoggia un po' al Movimento 5 Stelle, c'erano stati anche delle dichiarazioni di Paola Taverna riguardo ai vaccini, non tutto il Movimento 5 Stelle, bisogna sempre essere cauti, però una parte del diciamo così l'area più utopica magari del Movimento 5 Stelle, no? che fomenta un po' i Novax. Chiaramente Forza Italia vuole invece diventare un partito di riferimento, un partito così di responsabilità nazionale, con un profilo più soft. Perché, Roberta? Perché a livello politico, dopo anni di urla tra Beppe Grillo che urlava, Matteo Salvini che urlava e anche Matteo Renzi che urlava, no? Quando doveva presentare il referendum per la riforma costituzionale, adesso l'Italia, un po' grazie anche alla ripresa economica che c'è, vuole ritrovare un po' di moderazione e soprattutto si sta un pochino sta seguendo il premier Paolo Gentiloni, insomma piace questo profilo soft che fino a 3 anni fa sarebbe stato avversato da tutti, adesso questa Italia un po' lo profile. Allora Forza Italia secondo me gioca questa partita al centro, no? Ma vogliamo vedere che magari troppe urla poi non attirano gli elettori, perché ricordiamoci, tutto questo è in vista delle prossime elezioni già, politiche. E a questo proposito, legge elettorale, quindi. E qui entriamo nella legge elettorale, e qui c'è sempre una divisione del centro-destra molto netta, ed è quella intanto che Forza Italia vorrebbe una coalizione che si presenta, mentre un listone, mentre Matteo Salvini dice che cosa vuol dire listone, se siamo diversi dobbiamo far vedere che siamo diversi, no? E dall'altra parte Forza Italia vuole comunque il proporzionale, perché vuole che all'indomani delle elezioni, se ci sono veramente tre schieramenti, magari potrebbe essere l'ago della bilancia, mentre Matteo Salvini no, Matteo Salvini vuole una coalizione con il maggioritario che si presenti prima, non dopo, e qui c'è la prima divisione. Il Movimento 5 Stelle vuole prima l'approvazione dei vitalizi, ma poi Toninelli ha anche detto che non vuole le coalizioni, perché ovviamente i 5 Stelle su questo sono molto molto lineari, dicono da sempre no alle coalizioni. Il PD un po' temporeggia, c'è cioè un'area che vorrebbe il maggioritario, vedi Matteo Renzi, un'area che vorrebbe più il proporzionale. Quindi ancora siamo lontani, diciamo, da come un al solito, ecco. Siamo ancora, carissimo amico, bene, con Matteo Renzi che dice vabbè, se siamo d'accordo tutti bene, però se no non sembra che ci sia questo accordo, no. Quindi torneremo a parlare del solito tormentone, molto, torneremo a parlare molto di legge elettorale. Grazie Elisabetta Fiorito, annoiando i radioascoltatori, annoiando moltissimo, ma insomma cercando di sostenere in qualche modo gli spiriti. Grazie, grazie. Ciao Betta. A te, grazie radioascoltatori. Oh, invece adesso andiamo ai problemi americani con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Caro Marco, perché non solo gli Stati Uniti attendono la risoluzione ONU, Trump aveva chiesto di inasprire le sanzioni contro la Corea del Nord, sta aspettando questa risoluzione entro il fine settimana, non solo, ci sono 15 stati, leggevo poco fa, che hanno intenzione di fare causa nei confronti del governo americano di Trump contro l'abrogazione di ieri del programma per salvaguardare i Dreamers, i giovani immigrati che era stato voluto da Obama. Arriva l'uragano Irma, non se ne può più. Eh sì, diciamo che è un autunno, preannuncia caldo, denso di drammi, di incertezze, di incognite, diciamo così, naturali e diciamo di causa umana, politica. Come ricordavi, esatto, a questo punto c'è l'emergenza che si sta avvicinando di Irma, che potrebbe colpire presto entro il weekend Porto Rico e poi la Florida, come in precedenza aveva colpito il Texas. Ecco, questa, diciamo così, emergenza naturale forse ha anche aiutato un compromesso politico arrivato proprio questa sera, e cioè il Congresso e il presidente Donald Trump hanno concordato quantomeno di una tregua, diciamo, per non chiudere il governo e non creare aspetti di default sul debito americano, sospendendo il tetto del debito e confermando finanziamenti di budget al governo per almeno 3 mesi. Ecco, quindi questo quantomeno, ecco, aiuta i mercati, ma aiuta soprattutto chi si aspetta dal governo, diciamo, soccorsi anche di fronte a emergenze naturali quali quelle dell'uragano. Marco, abbiamo proprio ancora pochi secondi, leggo che sono 16 adesso gli stati che fanno causa a Trump per il DACA, ci sono già anche i vescovi americani sono intervenuti dicendo che è stata un'azione quella di Trump riprovevole e straziante. Certo, questo rimane uno dei grandi temi caldi, caldissimi, quello dell'immigrazione. A questo punto, esatto, si profilano sfide legali, come quella di tutti gli stati, prese di posizioni politiche e etiche, come quella dei vescovi, come quella di molti top executive della corporate America contro qualunque spettro di espulsione di centinaia di migliaia di giovani immigrati illegali cresciuti a tutti gli effetti negli Stati Uniti fin da bambini. Ecco, si profila anche qua forse un'ipotesi di compromesso. Lo speaker della Camera repubblicano Paul Ryan oggi ha detto che cercherà di proporre una misura che cerchi di accontentare entrambi i fronti, e cioè d'altronde la politica è compromesso, come sappiamo. Grazie Marco Valsania, anche a New York, vero? A voi. Ciao Marco, ciao, ci risentiamo tra poco come al solito per gli aggiornamenti.